Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Sandro Lombardi legge Il giardino dei Finzi Contini, di Giorgio Bassani. Quanti anni sono passati da quel remoto pomeriggio di giugno? Più di 30. Tuttavia, se chiudo gli occhi, Nicole Finzi Contini è ancora là, affacciata al muro di cinta del suo giardino, che mi guarda e mi parla. Era poco più che una bambina nel 1929, una tredicenne magra e bionda, con grandi occhi chiari, magnetici. Io, un ragazzetto in calzoni corti, molto borghese e molto vanitoso, che un piccolo guaio scolastico bastava a gettare nella disperazione più infantile. Ci fissavamo entrambi. Al di sopra di lei il cielo era azzurro e compatto, un caldo cielo già estivo, senza la minima nube. Niente avrebbe potuto mutarlo, e niente l'ha mutato, infatti, almeno nella memoria. Allora, vuoi o non vuoi? Incalzò Nicole. Ma non so, cominciai a dire, accennando al muro. Mi sembra molto alto. Perché non hai visto bene? Ribatté lei impaziente. Guarda là, e là, e là. E puntava il dito per farmi osservare. C'è una quantità di tacche e perfino un chiodo quassù in cima. L'ho piantato io. Sì, gli appigli ci sarebbero per esserci, mormorai incerto, ma... Appigli, mi interruppe subito, scoppiando a ridere. Io per me le chiamo tacche. Male, perché si chiamano appigli, insistei, testardo e acido. Si vede che non sei mai stata in montagna. Ho sempre sofferto di vertigini fin da bambino e, per quanto modesta, la scalata mi impensieriva. Eppure non era tanto per questo motivo che ancora esitavo. A trattenermi era una ripugnanza diversa da quella puramente fisica delle vertigini, analoga, ma diversa e più forte. Per un attimo giunsi a rimpiangere la mia disperazione di poco prima, il mio sciocco, puerile pianto di ragazzo bocciato. E poi non capisco per quale ragione, continuai, dovrei mettermi a fare dell'alpinismo proprio qui. Se debbo entrare in casa vostra, grazie mille, molto volentieri, però francamente mi sembra di gran lunga più comodo passare di là. E così dicendo, alzavo il braccio in direzione di Corso Ercole I, dal portone d'ingresso. Che cosa ci vuole? Prendo la bicicletta e in un momento faccio il giro. Mi accorsi subito che la proposta non le andava. Ma no, no, disse, deformando il viso in un'espressione di intenso fastidio. Se passi di là, ti vede per forza Perotti, e allora addio, è finita, non c'è più nessun gusto. Perotti? Chi è? Il portinaio. Sai, forse l'hai già notato, quello che ci fa anche da cocchiere e da chauffeur. Se lui ti vede, e non può non vederti, perché, a parte le volte che va fuori con la carrozza o con la macchina, è sempre là a far la guardia, il maledetto. Dopo bisogna assolutamente che ti porti anche in casa, e dimmi tu se... ti pare? Mi guardava dritto negli occhi, seria ora, sebbene calmissima. Va bene, risposi voltando il capo e accennando col mento all'argine. Ma la bicicletta dove la lascio? Non posso mica lasciarla là, abbandonata. È nuova, una Volsit, col fanalino elettrico, la borsetta per i ferri, la pompa. Figurati, se mi faccio rubare anche la bicicletta. E non aggiunsi altro. Ripreso di colpo dall'angoscia dell'inevitabile incontro con mio padre. Quella sera stessa, al più tardi, sarei dovuto tornare a casa. Non avevo altra scelta. Girai di nuovo gli occhi verso Nicole. Senza dir nulla, mentre io parlavo, si era messa a sedere sul muro, volgendomi la schiena, e adesso alzava decisa una gamba e si poneva a cavalcioni. «Che cosa stai combinando?» dissi, sorpreso. Ho avuto un'idea. Per la bicicletta. Così intanto ti mostro i punti dove è meglio mettere i piedi. Sta bene attento a dove li metto io, guarda. Volteggiò lassù, in cima, con grande disinvoltura. Poi, afferratasi con la mano destra al grosso chiodo rugginoso che mi aveva indicato poco prima, cominciò a scendere. Veniva giù adagio, ma sicura, cercando gli appoggi con le punte delle scarpette da tennis, ora con una, ora con l'altra, e trovandoli sempre senza troppa fatica. Scendeva bene. Tuttavia, prima di toccar terra, le mancò un appoggio e scivolò. Cadde in piedi, per fortuna, ma si era fatta male alle dita. Inoltre, strusciando contro il muro, il vestitino di tela rossa ad ammare le si era strappato leggermente sotto un'ascella. «Che stupida!» brontolò, portando la mano alla bocca e soffiandoci su. «È la prima volta che mi succede». Si era anche sbucciata un ginocchio. Tirò su un lembo del vestito fino a scoprire la coscia stranamente bianca e forte, già da donna, e si chinò a esaminare l'abrasione. Due lunghe ciocche bionde, di quelle più chiare, sfuggite al cerchietto di cui si serviva per tenere a posto i capelli, ricaddero in giù, a nasconderle la fronte e gli occhi. «Che stupida!» ripeté. «Ci vuole dell'alcol!» dissi io meccanicamente, senza avvicinarmi, nel tono un po' lamentoso che adoperavamo tutti in famiglia in circostanze del genere. «Ma che alcol!» Leccò rapida la ferita, una specie di piccolo bacio affettuoso, e subito si drizzò. «Vieni», disse, tutta rossa e scarmigliata. Si volse e prese ad arrampicarsi obliquamente lungo la proda assolata dell'argine. Si aiutava con la mano destra, afferrandosi ai ciuffi dell'erba. Intanto, la sinistra levata all'altezza del capo, veniva togliendosi e rimettendosi il cerchietto fermacapelli. Ripeté la manovra più volte, svelta come se si pettinasse. «Vedi quel buco là?» mi disse poi, non appena fummo arrivati in cima. «La bicicletta puoi benissimo nascondercela dentro». Mi indicava, a una cinquantina di metri di distanza, una di quelle piccole, erbose montagnole coniche, non più alte di 2 metri e con l'apertura d'ingresso quasi sempre interrata, nelle quali è abbastanza frequente imbattersi facendo il giro delle mura di Ferrara. A vederle assomigliano un po' ai montarozzi etruschi della campagna romana, in scala molto minore, naturalmente. Se non che la camera sotterranea, spesso vastissima, a cui qualcheduna di esse dà ancora adito, non ha mai servito da casa per nessun morto. Gli antichi difensori delle mura vi riponevano armi, colubrine, archibugi, polvere da sparo, eccetera. E forse anche quelle strane palle da cannone di marmo pregiato che nel 4 e nel 500 avevano reso così temuta in Europa l'artiglieria ferrarese e di cui si può vedere tuttora qualche campione in castello, messa là come ornamento del cortile centrale e delle terrazze. «A chi vuoi che venga in mente che ci sia una Volsit nuova, là sotto? Bisognerebbe proprio saperlo. Ci sei mai stato?» Scossi il capo. «No, io sì, una infinità di volte. È magnifico!» Si mosse decisa, ed io, raccolta la Volsit da terra, le tenni dietro in silenzio. La raggiunsi sulla soglia del pertugio. Era una sorta di fessura verticale, tagliata al vivo nella coltre d'erba che rivestiva compatta il monticello, così stretta da non consentire il passaggio a più di una persona per volta. Immediatamente di là dalla soglia cominciava la discesa, e se ne vedeva per 8-10 metri, non di più. Oltre non c'erano che tenebre, come se il cunicolo andasse a finire contro una tenda nera. Si sporse a guardare, poi d'improvviso si voltò. «Va giù tu», bisbigliò. E sorrideva debolmente, imbarazzata. «Preferisco aspettarti qua sopra». Si tirò da parte, congiungendo le mani dietro la schiena e addossandosi alla parete d'erba di fianco all'ingresso. «Non ti farà mica impressione?» chiese, sempre sottovoce. «No, no», mentii, e mi chinai per sollevare la bicicletta e mettermela in spalla. Senza aggiungere altro, le passai davanti e mi inoltrai nel cunicolo. Dovevo procedere adagio, anche per via della bicicletta, il cui pedale di destra urtava continuamente nella parete, e da principio, per 3 o 4 metri almeno, fui come cieco. Non vedevo nulla, assolutamente. A una decina di metri dalla bocca d'ingresso, invece, «Sta attento!» gridò a questo punto la voce già lontana di Nicole alle mie spalle. «Bada, che ci sono degli scalini!» Cominciai a distinguere qualcosa. Il cunicolo finiva poco più avanti. Ce n'era per qualche altro metro di discesa, non di più. Ed era di lì, appunto, A partire da una specie di pianerottolo attorno a cui indovinavo, già prima di esserci, uno spazio totalmente diverso, che avevano inizio gli scalini preannunciati da Nicole. Raggiunto che ebbi il pianerottolo, sostai un momento. All'infantile paura del buio e dell'ignoto che avevo provato nel momento in cui m'ero separato da Nicole, s'era venuto sostituendo in me, a mano che mi inoltravo nel budello sotterraneo, un senso non meno infantile di sollievo, come se, essendomi sottratto in tempo alla compagnia di Nicole, fossi scampato a un gran pericolo, al pericolo maggiore al quale un ragazzo della mia età, un ragazzo della tua età, era una delle espressioni favorite di mio padre, potesse andare incontro. Eh sì, pensavo ora, quella sera rincasando, il papà mi avrebbe magari picchiato, ma io, le sue botte, potevo ormai affrontarle tranquillamente. Una materia a ottobre. Aveva ragione Nicole di riderci su. Che cos'era una materia a ottobre a paragone del resto? E tremavo che laggiù, nel buio, sarebbe potuto succedere tra noi. Forse avrei trovato il coraggio di darle un bacio a Nicole, un bacio sulle labbra. E poi? Che cosa sarebbe accaduto poi? Nei film che avevo visto e nei romanzi, i baci avevano voglia, sì, a essere lunghi e appassionati. In realtà, in confronto al resto, essi non rappresentavano che un momento, un attimo in fondo trascurabile, se dopo che le labbra si erano congiunte e le bocche quasi compenetrate una dentro l'altra, il filo del racconto non poteva essere ripreso il più delle volte prima del mattino successivo o addirittura parecchi giorni più tardi. Già, ma se io e Nicole fossimo arrivati al punto di baciarci in quel modo, e l'oscurità avrebbe certamente favorito la cosa, dopo il bacio, il tempo sarebbe continuato a scorrere tranquillo, senza che nessun intervento estraneo e provvidenziale potesse aiutarci a raggiungere di colpo l'approdo della mattina seguente. Che cosa avrei dovuto fare, allora, per riempire i minuti e le ore? Oh, ma questo non era accaduto, fortunatamente. Meno male che mi ero salvato. Cominciai a scendere gli scalini. Giù per il cunicolo si infilava qualche debole raggio di luce. Adesso me ne accorgevo. E un po' con la vista, un po' con l'udito, bastava niente che urtassi con la bicicletta nella parete o un tallone mi slittasse giù da un gradino e subito l'eco ingigantiva e moltiplicava il suono, misurando spazi e distanze. Ben presto mi resi conto della vastità dell'ambiente. Doveva essere una sala d'una quarantina di metri di diametro, calcolai, rotonda, con la volta a cupola alta almeno altrettanto, una specie di imbuto rovesciato. Chissà, forse mediante un sistema di corridoi segreti comunicava con altre sale sotterranee dello stesso tipo che certo si annidavano a decine nel corpo dei bastioni. Niente di più facile. Il fondo era di terra battuta, liscio, compatto e umido. Inciampai in un mattone, quindi, seguendo a tentoni la curva della parete, pestai della paglia. Accostai la bicicletta al muro e mi sedetti, restando con una mano afferrata al cerchione della Volsit e con un braccio attorno alle ginocchia. Il silenzio era rotto solamente da qualche fruscio, qualche squittio, topi, è probabile, pipistrelli. E se viceversa fosse accaduto, pensavo, sarebbe stato così terribile se fosse accaduto? Quasi di sicuro non sarei tornato a casa, e i miei genitori, e Otello Forti, e Sergio Pavani, e tutti gli altri, questura compresa, avrebbero avuto un bel cercarmi, davvero. Nei primi giorni si sarebbero affannati, frugando da ogni parte. Ne avrebbero parlato anche i giornali, tirando fuori le solite ipotesi, rapimento, disgrazia, suicidio, espatrio clandestino. A poco, tuttavia, le acque si sarebbero calmate. I miei genitori si sarebbero dati pace. Dopotutto restavano loro Ernesto e Fanny. Le ricerche sarebbero cessate. E a pagare, alla fine, sarebbe stata soprattutto lei, quella stupida pinzocchera della Fabiani, la quale per punizione sarebbe stata trasferita ad altra sede, per dirla col professor Meldolesi. Dove? In Sicilia o in Sardegna, naturalmente. E le stava bene. Così avrebbe imparato, a sue spese, a essere meno perfida e carogna. Quanto a me, visto che gli altri si davano pace, me la sarei data anch'io. Potevo contare su Nicole, fuori. Ci avrebbe pensato lei a rifornirmi di cibo e di tutto quanto avessi bisogno. E sarebbe venuta da me ogni giorno, scavalcando il muro di cinta del suo giardino, d'estate e d'inverno. E ogni giorno ci saremmo baciati, al buio, perché io ero il suo uomo e lei la mia donna. Ma poi non era mica detto che non potessi uscire mai più all'aperto. Durante il giorno dormivo, si capisce, interrompendo il sonno soltanto quando sentivo sfiorarmi le labbra dalle labbra di Nicole e più tardi riaddormentandomi con lei fra le braccia. Di notte, tuttavia, di notte potevo benissimo fare delle lunghe sortite, specie se sceglievo le ore dopo l'una, le due, quando tutti sono a dormire e per le vie della città non è rimasto praticamente più nessuno. Strano e terribile, ma in fondo anche divertente, passare da via Scandiana, rivedere la nostra casa, la finestra della mia camera da letto adattata a salotto ormai, nascosto nell'ombra, scorgere di lontano mio padre che torna proprio adesso dal circolo dei commercianti e non gli passa nemmeno per la testa che io sono vivo e sto osservandolo. Difatti tira fuori di tasca la chiave, apre, entra e quindi, tranquillo, proprio come se io, suo figlio maggiore, non sia mai esistito, richiude il portone d'un colpo solo. E la mamma? Non potevo tentare un giorno o l'altro di far sapere almeno a lei, per tramite di Nicole magari, che non ero morto? E rivederla anche, prima che, stanco della mia vita sotterranea, me ne andassi via da Ferrara e sparissi definitivamente? Perché no? Sicuro che lo potevo. Non so quanto rimasi. 10 minuti, forse. Forse meno. Ricordo con precisione, ad ogni modo, che mentre risalivo gli scalini e infilavo di nuovo il cunicolo, alleggerito del peso della bicicletta, andavo svelto ora, continuavo a pensare e fantasticare. E la mamma, mi chiedevo, si sarebbe scordata anche lei di me, come tutti? Alla fine mi ritrovai all'aperto e Nicole non era più là ad aspettarmi, dove l'avevo lasciata poco prima, bensì, come vidi quasi subito, facendomi schermo con la mano dalla luce del sole, nuovamente laggiù, seduta a cavalcioni del muro di cinta del barchetto del Duca. Stava discutendo e parlamentando con qualcuno che l'attendeva ai piedi della scala, dall'altra parte del muro. Il cocchiere Perotti, probabilmente, o addirittura il professor Ermanno in persona. Era chiaro. Avevano notato la scala appoggiata al muro e si erano subito resi conto della sua piccola evasione. Adesso la invitavano a scendere e lei non si decideva a obbedire. Infine si voltò e mi scorse in cima all'argine. Allora gonfiò le guance come a dire «Uffa, finalmente!» e il suo ultimo sguardo, prima di scomparire di là dal muro, uno sguardo accompagnato da un amico sorridente, proprio come quando al tempio essa mi spiava da sotto il taled paterno, era stato per me. Sandro Lombardi ha letto Il giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani, a cura di Fabiana Carovolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.